Saluto a tutti da Alessandra, alias Stockholm, ma a Malta, e in questo momento siamo in linea con Flavio, alias Flavione, da Heidelberg in Germania. Ciao Flavio, come stai? Ciao Alessandra, abbastanza bene, grazie, tu? Anche io bene. Ciao a tutti, mi senti bene? Sì, ti sento bene. E Flavio, presentati un po' e raccontaci un po' come sei arrivato a Heidelberg. Ma un po' è stato una cosa quasi casuale. Io sono nato in Sabina e ho studiato a Roma matematica e dai tempi dell'università, diciamo, abitavo a Roma, quindi mi sono laureato nel 94 e poi ho cominciato a lavorare a Roma. Sarà stato il 97, così avevo mandato un curriculum a una di queste aziende che fanno, chiamiamoli cacciatori di testa, questi che mandano poi i profili alle aziende, organizzano i colloqui. E circa un anno dopo mi ero anche dimenticato di aver mandato questo curriculum, mi arrivò un contatto, mi avevano organizzato questo colloquio in Germania, a Heidelberg, che non stava, avevo mandato una lista di paesi preferiti, la Germania non era il primo, insomma, stava forse verso il quarto o quinto. Comunque mi organizzarono questo colloquio, venni qui a Heidelberg, non avevo nemmeno mai sentito parlare, e fu un'esperienza un po' tipo Totò e Peppino che vanno a Milano, no? Era aprile, però pensavo, in Germania lì farà freddo. Quindi venni con un abbigliamento un po' pesante, invece arrivai qui che c'era il sole, 25 gradi, quindi sudavo al colloquio. E no, poi appunto la città mi piacque proprio a primo impatto, anche l'azienda, così, e quindi accettai. E quindi dal 99 sto qua, inizialmente pensavo di rimanere un anno, al massimo due, e sto ancora qua. Ok, parlaci un po', e a Heidelberg hai anche fondato la sezione di Italians Online, di cui sei il padre fondatore, come si dice in gergo iollico. Sì, un po' di tempo fa, mi sembra fosse il 2003, probabilmente, penso che il sito Italian Online era nato da poco, credo. Era un periodo in cui stavo facendo delle ricerche per trovare altri italiani qui in Germania e trovai appunto il sito Italians Online. E Tu quindi sei arrivato in Germania già sapendo il tedesco oppure no? no. Sapevo Danke, Guten Morgen, no, non lo sapevo. E quindi, però, la fortuna era che nell'azienda si parlava, un'azienda americana si parlava inglese, quindi non è che il mio inglese fosse chissà che, insomma, un po', diciamo, un inglese scolastico, così, quindi anche con quello ebbi difficoltà, quindi inizialmente mi concentrai più nel migliorare il mio inglese, quindi qui andavo avanti con l'inglese, poi ho cominciato a imparare il tedesco, lingua bella ma molto difficile. Impegnativa sicuramente, il tedesco soprattutto per noi italiani è piuttosto impegnativo. Va bene, senti, raccontaci un po' di Heidelberg. Beh, Heidelberg è una città universitaria, cioè una delle università più importanti della Germania, di sicuro è la più antica, mi sembra, credo che sia del 1300. È una città abbastanza piccola, 150.000 abitanti circa, però ha un profilo abbastanza internazionale. Io la paragono sempre un po' a una Perugia tedesca, perché appunto molti studenti internazionale, così piccola, però offre molte cose, molti eventi culturali, anche considerate le dimensioni. Poi è immersa nel verde, un po' tra la Odenwald e più a sud la Schwarzwald, la Foresta Nera, quindi si possono fare delle camminate lunghissime per i boschi, si va in bicicletta tranquillamente, ci si sposta dappertutto. Queste sono alcune delle cose che apprezzo molto, il fatto di di potermi muovere in bicicletta, la macchina la prenderò sì e no una volta a settimana. Quindi rispetto a Roma, insomma, questa è una grande differenza. Poi appunto questo avere tutto a portata di mano. Ci In un sono certo senso chiaramente. mi hai anticipato quasi la domanda che, diciamo, abbastanza di prassi, che faccio a tutti di cosa ti manca e cosa non ti manca dell'Italia. Insomma, mi pare che di capire che dell'Italia, almeno di Roma, il traffico proprio non ti manchi. No, quello sicuramente no. Poi sì, ci sono delle cose che ti mancano in generale dell'Italia, in particolare di Roma. Vabbè, Roma è inutile stare a citare il fatto della bellezza, e poi ti mancano magari degli aspetti così del carattere degli italiani, che è un po' difficile poi anche distinguere se è anche una questione di carattere, nella facilità dell'avere rapporti sociali. È un po' difficile, dicevo, distinguere se e quanto possa avere un ruolo pure la barriera linguistica, perché per quanto uno possa conoscere bene una lingua, almeno che uno non sia proprio bilingue, quella cosa, la differenza linguistica, anche culturale, costituiscono sempre un minimo una barriera, no? E per certi versi la percepisco di più adesso, stranamente, che 10 anni fa. Adesso mi pesa un po' questo fatto di questa mancanza di immediatezza, cioè che io parlo e posso esprimere a tutti i livelli quello che vorrei dire, non semplificandolo così delle formule un po' esemplificative, e magari quando uno fa una battuta vorrei capirlo immediatamente e avere la possibilità di rispondere immediatamente, e questa cosa un po' manca, ecco, questo. Personalmente è una cosa che negli ultimi tempi un pochino mi pesa. Altre cose, vabbè, uno può citare, non so, i cibi, ma questo relativamente, perché in casa cuciniamo molto, io, mia moglie Daniela ci dilettiamo, quindi quello manca relativamente, ecco. Ti sentiresti di consigliare Heidelberg per Erasmus? Ah sì, sicuramente, come dicevo, è una città in cui si vive molto bene, a livello di studenti, penso appunto che attragga molto, ci sono molti studenti stranieri, quindi sì, la consiglierei. Okay. Peraltro sentivo persone che ci sono state anche da un punto, anche se non è grandissima, Heidelberg da un punto di vista artistico offre abbastanza, insomma, rispetto come bellezza, insomma, per essere una città tedesca che molte hanno avuto i centri storici molto segnati dalla Seconda Guerra Mondiale, insomma, mi dicono che Heidelberg è stata abbastanza preservata in tal senso. Sì, molto preservata, infatti è stata, penso, non so se l'unica o una delle pochissime città, diciamo di una certa dimensione, di città tedesche a non essere stata bombardata o minimamente. Mi sembra che bombardarono solo per questioni, credo solo i ponti, insomma, per questioni logistiche, credo. Pare che, non so quanto sia vero, ma si dice che ci sia stato un patto tra non so quale livello delle forze naziste e di quelle degli alleati anglosassoni soprattutto, per cui i tedeschi avrebbero risparmiato, mi sembra, Oxford come città universitaria britannica, e i britannici avrebbero risparmiato Heidelberg. Non so quanto sia effettivamente storica la cosa, comunque c'è questa voce. Ok. Sì, cose artistiche, appunto c'è il Ponte Vecchio, c'è il centro storico molto bello, una via principale pedonale che è lunga più di 1 chilometro, diciamo che, viste le dimensioni, comunque in 3-4 giorni si vede un po' tutto, forse anche meno. Ok. Quindi è una tappa che comunque consigli anche a livello turistico se si va in Germania. Sì, battuta molto soprattutto da americani e giapponesi come tipologia di turisti, anche molti italiani che vengono anche, soprattutto tantissimi ci sono nel periodo natalizio, quando c'è il mercatino di Natale, che è pure un po' un'attrazione particolare magari per chi non ha mai visto questi mercatini natalizi tedeschi. Bene, potrebbe essere un'occasione anche per rifare di nuovo un'intervista sull'argomento in un altro momento dell'anno. Va bene, allora adesso insomma, affronteremo un tema delicato, ma allo stesso tempo anche importante con Flavio. Flavio è reduce da una leucemia. E ti va di raccontare questa esperienza? Sì, non ho problemi a parlarne. È una cosa un po' ormai passata, diciamo, cominciò tutto nel 2005. E cominciò in modo un po' strano perché allora avevo 35 anni, non avevo mai avuto problemi di salute, avevo sempre condotto una vita più o meno salutare, con sport, alimentazione sana, eccetera. E mi cominciò con un dolore all'indole. Dopo un paio di giorni che questo dolore non andava via, andai dal medico di famiglia. E lei fu brava perché non sottovalutò la cosa e mi fece prima di tutto il prelievo, analisi del sangue e poi cominciò a indagare su vari fronti, quello urologico e quello chirurgico principalmente, perché diceva potrebbe essere un'infezione o un'ernia. E andai dall'urologo e non trovò nulla. E il chirurgo invece, andare al chirurgo mi disse: ah sì, è un'ernia, prendiamo l'appuntamento per l'operazione, presi l'appuntamento per l'operazione, così vabbè, dico, era la mia prima esperienza in ospedale, non un'operazione, ma insomma un'ernia, non sarà un danno. Invece poi arrivano questi risultati delle analisi del sangue e avevo i leucociti, i globuli bianchi a 40.000, sopra 40.000. Io non mi rendevo molto conto allora, però la dottoressa mi fece notare che insomma era un valore molto alto, normale, il massimo fino a 9.000. E io pensavo, vabbè, sarà un'infezione, vediamo un po', però vedevo che la dottoressa era un po' preoccupata, mi disse forse è il caso che annulli, dovevo fare un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, forse è il caso che annulli questo viaggio, quindi annullai il viaggio. E mi mandò da un'ematologa che fece ulteriori ulteriori esami ematologici, però ci voleva un po' di tempo per ottenere i risultati. E contemporaneamente mi uscì fuori un altro sintomo che sembrava scorrelato, mi comparsero delle chiazze sul polpaccio. E andai di nuovo dal medico di famiglia, mi disse una tromboflebite. Io cominciai a un po' pensare, ma che c'entra adesso la tromboflebite con quest'altra cosa, con l'ernia. E insomma, cominciai a cercare su internet e a sospettare un po'. L'ematologa nel frattempo mi diceva potrebbe trattarsi o di una mononucleosi o di una malattia del sangue, quindi cominciai ad allarmarmi sempre di più. E effettivamente durante le mie ricerche vidi che questi sintomi, cioè i globuli bianchi così alti, potevano essere causati da una mononucleosi, però lì non parlavano di trombofleviti. Poi a un certo punto trovai un altro sintomo che mi era uscito nel frattempo in queste ricerche che facevo, che era un indolenzimento alle costole quando esercitavo una pressione sulle costole. E dicevano che era in quel caso uno dei sintomi della leucemia, quindi lì a quel punto mi convinsi abbastanza e non lo dissi a Daniela, mia moglie, ma poi seppi che contemporaneamente anche lei aveva fatto ricerche simili e era giunta alla stessa conclusione. E poi ci fu una storia appunto di questa provetta del sangue i cui risultati non arrivavano, pare che si era persa, quindi dovessi rifare il prelievo, tutta una storia travagliata. Alla fine la dottoressa, l'ematologa, ci convocò, disse i risultati sono pronti, però non me li disse al telefono, quindi la tensione si accumulava. Arrivammo lì. In questo ambulatorio era luglio, quindi era il 21 luglio, me lo ricordo benissimo, caldo, e ci diede l'appuntamento verso l'ora di pranzo, tra mezzogiorno e l'una. E stavamo lì che fremevamo, e ci passarono tutti i pazienti avanti, proprio finiti, eravamo rimasti solo noi. Ci passò addirittura avanti, mi ricordo benissimo, un rappresentante di una casa farmaceutica che in quel momento odiai proprio. E alla fine ci ricevette dentro, e lì dopo i convenevoli ci lette la sentenza, insomma, che era questa leucemia linfoblastica acuta, e fu chiaramente un fulmine nello stomaco, un tonfo al cuore. Cioè, per pochi secondi proprio i sensi si oscurarono, non capivo neppure più le parole della dottoressa, ricordo solo la mano di Daniela che stringeva la mia. Poi però devo dire che la dottoressa fu molto brava, sto ancora adesso in contatto con lei, riesce a comunicare molto bene, questa è una dote che pochi medici hanno secondo me ed è una dote importante che dovrebbe far parte secondo me della formazione di un medico, perché non è importante, è importante sicuramente l'aspetto di conoscenza della medicina, quindi scientifico, ma è molto importante anche l'approccio umano e psicologico. E lei fu molto brava a comunicare questa cosa, disse che comunque si curava, una malattia che si curava bene con la chemioterapia. Ti dico solamente che uscii di lì e che mi sentivo sollevato, cioè, i momenti più brutti effettivamente li avevo passati in quella fase in cui avevo capito, prima che la dottoressa mi desse la diagnosi, io avevo capito che si trattava di una leucemia e a 35 anni, senza essere mai stato male, ti trovi ad avere a che fare con l'idea della morte, insomma, sono momenti un po' difficili da descrivere. Però uscii poi da questo ambulatorio che ero abbastanza sollevato. E mi ricoverai, la dottoressa mi diede l'opzione, l'unica cosa è che si dovrebbe agire molto rapidamente perché è una malattia che procede, che avanza in modo molto veloce. E mi disse ti dovresti ricoverare o stasera o domani al massimo. E io scelsi per ricoverare l'opzione del ricovero immediato. Quindi la sera stessa stavo lì alla Medizinische Klinik di Heidelberg, che tra l'altro era stata costruita solamente un anno prima, era stata inaugurata nel 2004 e questo era il 2005, quindi era una struttura nuovissima, efficientissima. Mi spiegarono subito che diciamo, arrivò subito una notizia che peggiorava la situazione che aveva un po' illustrato l'ematologa, perché dissero che nel mio caso loro si basavano su alcuni parametri per decidere se curare la leucemia solamente con la chemioterapia oppure con il trapianto. E nel mio caso, essendo uno dei parametri che loro considerano è il numero di globuli bianchi al momento della diagnosi, e nel mio caso superavano i 40.000 e quindi quello era un parametro che imponeva, secondo i loro protocolli, un trapianto. E quindi mi dissero che dovevo subire un trapianto. A quel punto io trapianto pensavo, come penso la maggior parte delle persone, nell'immaginario della maggior parte delle persone, il trapianto significa un'operazione in cui un organo viene sostituito con un altro. E invece nel caso del trapianto di midollo non è così. Perché l'organo non è un organo solido, ma è un fluido, è un liquido, quindi non esiste, non c'è un'operazione per cui l'organo viene sostituito con un altro, ma quindi è l'unico caso di trapianto in cui non sussiste un'operazione. Ecco, avviene in questo modo, si usa la chemioterapia e la radioterapia a dosi molto elevate per distruggere il midollo. E nel momento in cui viene raggiunta appunto la distruzione totale del midollo osseo, si inietta attraverso il sangue, attraverso la vena, oppure il midollo stesso, oppure le cellule staminali. Nel mio caso sono state le cellule staminali che vengono prelevate da un donatore. Ok, il donatore come l'hai trovato? Su che criteri è stato selezionato? Ecco, il donatore mi spiegarono subito che se uno ha consanguigno, un fratello, con un fratello diciamo c'è il 30% di probabilità che ci sia compatibilità, perché deve esserci una compatibilità tra il midollo del donatore e quello del trapiantato, e la probabilità di trovare una compatibilità invece tra persone non consanguinee è molto bassa. Io sono figlio unico e quindi l'unica possibilità era di trovare un donatore nel registro mondiale, no? Cioè una base di dati che contiene la tipizzazione, si chiama, di tutti quelli che si offrono la disponibilità per la donazione. E a quel punto chiaramente, perché appunto non è scontato che lo si trovi, anche se adesso questa base di dati conta più di 1 milione di persone, quindi la probabilità è abbastanza alta, ma non è scontato, in alcuni casi non lo si trova. E quindi a quel punto io pensai di mandare un appello, e tra l'altro lo mandai pure su un forum di Italians Online, scrissi questo forum. Bene, siamo in diversi che ci siamo ricordati. Sì, il forum leucemia era ancora lì, insomma. E la risposta fu eccezionale, sia da parte dei miei amici di Italians Online, tutti quelli che avevo contattato, al punto che quelli del laboratorio di Roma che curavano questa tipizzazione a un certo punto non riuscivano più a gestire questa mole di telefonate che arrivavano, di gente che voleva registrarsi per la donazione. Addirittura il capo di questo laboratorio volle conoscermi, volle parlare con me, perché disse: ma come mai questa mobilitazione non c'era mai arrivata? Poi appunto dopo un mese e mezzo mi sembra, mi arrivò la notizia che il donatore era stato trovato nel database tedesco, e chiaramente fu una bellissima notizia. Nel frattempo mi era arrivata un'altra notizia che peggiorava ancora la situazione, perché le leucemie sono classificate in 4 tipi principali. La mia era appunto quella linfoblastica acuta, e però c'era comparsa a un certo punto in un'ulteriore analisi una complicazione che è chiamata il cromosoma Filadelfia. È una mutazione che rende la leucemia più grave. Quindi alla fine, andandomi a fare dei conti poi da statistiche che avevo letto, le probabilità di sopravvivenza stavano intorno al 25%. Quindi puoi capire che il mio umore, insomma, sta lì molto bassi, la mia fiducia, ne avevo ben poca, devo ammettere. E poi c'erano anche, ci si aggiungevano i medici, che non so, in Italia forse è un po' diverso. Io alla fine la maggior parte delle esperienze l'ho avuto qui in Italia. Con il sistema sanitario ho avuto ben poco a che fare, perché non avevo mai avuto problemi. E qui una caratteristica è che ogni esame, ogni trattamento, qualsiasi cosa che uno affronta in ospedale a livello medico, la persona deve essere informata di tutti i rischi che corre, proprio nei dettagli più specifici. E quindi ogni volta che dovevo fare qualcosa mi ricordavano tutte le probabilità che uno aveva di sopravvivere oppure no. Quindi mi dissero che già nella fase di preparazione con chemioterapia e radioterapia c'erano un 20% di persone che morivano, perché ci sono questa distruzione del midollo porta a un annullamento delle difese immunitarie, per cui è molto facile prendersi delle infezioni. Infatti c'erano tutta una serie di misure per prevenire questa cosa. C'era mia moglie che mi ha assistito in un modo eccezionale in questo. Lei si svegliava la mattina prestissima alle 6, doveva lavare tutti i miei panni perché poi dovevo cambiarmi ogni giorno appunto per evitare che ci potessero essere delle infezioni. Lei mi preparava da mangiare perché con la chemioterapia il mio gusto era cambiato, quindi non riuscivo a mangiare tantissime cose che mi proponevano lì in ospedale. E quindi poi lei lavorava e la sera tornava da me con la cena pronta, insomma. Qualche volta mangiavo anche le cose dell'ospedale nei momenti in cui il sistema immunitario stava meglio e chiaramente, vabbè, diciamo che i cibi dell'ospedale tedesco, insomma già la cucina tedesca di per sé non è che sia tra le migliori cucine del mondo, poi quella ospedaliera, mi ricordo, mi è rimasta questo aneddoto che mi mettevano ogni tanto anche dei piatti di pasta. C'era questa, sarebbe stata penne all'arrabbiata, no? Però avevano scritto penne alla arrabbiata, no? Che mi faceva pensare alla rabbia, che cos'è penne all'arrabbiata, che poi erano, in realtà non erano neppure penne, le presi giusto così, diciamo, vabbè, proviamo, erano spaghetti scotti con dei piselli, una cosa assurda. Per fortuna, insomma, c'era Daniele che mi portava le cose da casa e la clinica era molto ben organizzata perché si poteva cucinare lì, quindi a volte Daniela preparava il sugo in casa e poi mi cuoceva la pasta lì. E a volte gli infermieri si guardavano quelle cose un po' con l'acquolina in bocca. Senti, hai conosciuto il tuo donatore o no? Il mio donatore c'è questa regola che fino a 2 anni dopo il trapianto non è possibile entrare in contatto con il donatore. Dopo 2 anni è possibile. E io così inizialmente pensavo, boh, non lo so, che faccio, lo contatto, ero un po' incerto. E a un certo punto invece è stato proprio lui che ha preso l'iniziativa e mi è arrivata la comunicazione dalle persone che gestiscono l'amministrazione appunto di questa banca di dati e mi chiesero se volevo dare il consenso per il contatto. Io dissi sì, va bene, e loro stessi mi consegnarono, però forse all'inizio è meglio che vi scambiate solo magari indirizzo email perché a volte può essere deludente, non so bene, mi misero un po' in guardia, insomma, non ho mai capito bene perché, ma quindi inizialmente abbiamo cominciato a scambiarci dei messaggi, delle email e poi diciamo, ci siamo sentiti al telefono un po' di volte e alla fine abbiamo deciso di incontrarci, ci incontreremo adesso per la prima volta dopo Pasqua, il lunedì di Pasqua. Quindi, E trovo che sia bellissimo questo perché, insomma, è anche, ci stiamo avvicinando, a parte, vabbè, come detto, ci stiamo avvicinando alla Pasqua e trovo che al di là di tutto sia molto simbolico di questo tempo in cui chi crede celebra una risurrezione e anche chi non è credente, insomma, celebra comunque il risveglio della natura. Questo personalmente trovo veramente che sia, per me non è una coincidenza, però insomma, ognuno la vede come vuole, ecco. sì, probabilmente. Va Comunque con il donatore alla fine si crea un po'. Sono molto curioso di incontrarlo. bene. Comunque è tedesco. Sì, è tedesco e hai un rapporto un po' inedito perché non è un amico, non è un parente, però c'è un legame che non rientra in nessuna delle categorie note. Quindi, lui, le prime email che ci siamo scambiate sono state molto per me a livello emotivo, mi hanno colpito molto. Lui mi ha detto siamo una sorta di fratelli di sangue, perché effettivamente adesso io ho il suo sangue che scorre nelle mie vene, ho il suo gruppo sanguigno, perché il midollo appunto poi rigenera tutto il sangue. Quindi, un tipo di rapporto molto strano, insomma. E mi ha colpito molto il fatto anche che lui mi ha detto che questa sua decisione di iscriversi al registro dei donatori nacque un po' in conseguenza di un lutto familiare in cui aveva una sorella che morì in un incidente, e quindi quella cosa lo spinse un po' a iscriversi a questo registro, e mi disse: adesso mi vedo come un nuovo fratello che ho acquisito con questo mio arte. Mi toccò molto questa cosa. Poi penso anche, non so tu come hai vissuto la cosa, però trovo anche che sia bello che sia accaduto proprio a te, che non hai avuto fratelli nella vita. Sì. Va bene, Flavio. Senti, volevo solo chiederti una cosa da un punto di vista tecnico. Ci sono dei limiti particolari, mi sembra, di età, oltre che ovviamente di condizioni di salute per fare il donatore di midollo osseo. Ti risulta qualcosa? Sì, da quanto ne so io, fino loro accettano nuove registrazioni, chiamiamole, fino a 40 anni. Però la donazione poi credo che si possa fare anche fino a 50 anni o forse pure oltre. Però loro credo che accettino di registrare una persona come un nuovo possibile donatore fino a 40 anni, perché i costi di queste analisi credo che siano abbastanza alti, quindi si vogliono accertare un intervallo abbastanza lungo in cui questa persona registrata come nuovo donatore sia disponibile per la donazione. Ok, e volevo dirti, ovviamente la compatibilità non può essere, cioè chiedo, perché parlo da profana di medicina, può essere stabilita solo dall'analisi del sangue o comunque bisogna fare l'estrazione del midollo osseo per vedere se c'è questa compatibilità? Per la compatibilità, allora, credo che ci sia, adesso, i dettagli adesso dovrei riguardarmeli un po', li avevo guardati a suo tempo, adesso forse li ho un po' dimenticati, però da quello che mi ricordo c'è una prima analisi che è solo analisi del sangue, quella per registrarsi, e lì c'è un'attivizzazione. Poi, nel momento in cui arriva l'attivizzazione di una persona che ha bisogno del trapianto, loro credo che facciano un primo abbinamento per cui magari trovano, non so, 3-4 persone che hanno questo primo tipo di compatibilità, convocano queste 3-4 persone e fanno un'ulteriore analisi che credo sia sempre solo del sangue, però è più approfondita. E a quel punto riescono a individuare proprio come si dice, l'abbinamento più forte, Consono, consono. sì, più consono. E poi, una volta stabilito qual è il donatore, ci sono due possibilità. Utilizzano o direttamente proprio il midollo, e in quel caso deve essere prelevato il midollo, che io inizialmente, magari anche tanta gente lo pensa da profano, pensavo che si trattasse del midollo spinale, invece no, si tratta del midollo osseo che viene estratto dalle ossa del bacino di solito. Però questo è quello che viene usato soprattutto in Italia, cioè estraggono quindi proprio il midollo osseo dall'osso del bacino, e credo che lo facciano con anestesia totale, perché diciamo che solo un piccolo prelievo lo si fa anche in anestesia locale. Io li faccio per controllo ogni 3 mesi e non è niente di drammatico, proprio. Adesso mi ci sottopongo proprio come se andassi a fare un prelievo del sangue. Però nel caso in cui per il trapianto mi serve una certa quantità, quindi devono perforare più di una volta, in quel caso quindi fanno una leggera anestesia totale. Però c'è anche un'altra possibilità, che è quella che viene usata soprattutto qui in Germania, che è quella di utilizzare le cellule staminali, che è quella che è stata utilizzata nel mio caso. Lì non c'è il prelievo di midollo, ma c'è un trattamento, diciamo, con un medicinale che stimola il midollo a produrre, ad una sovrapproduzione di cellule staminali, e e queste vengono rilasciate anche nel sangue periferico. Quindi a quel punto poi il donatore, questo poi me l'ha raccontato il mio donatore in un'email, che è stato convocato un giorno in questo centro che stava a Dresda, in cui l'hanno tenuto circa 8 ore con 2 aghi al braccio. Da una parte il sangue usciva, entrava in questa macchina che selezionava le cellule staminali e rientrava poi dall'altro braccio. E quindi poi hanno prodotto questa cosa, diciamo, hanno prodotto questa sacca, come la chiamiamo, tipo quella delle che si usa nelle trasfusioni, di circa mezzo litro, credo, 250 ml, mezzo litro di cellule staminali. Queste io le ho ricevute appunto attraverso, come se fosse una trasfusione di sangue proprio, per via endovenosa. E in quel momento appunto il mio midollo era completamente assente, e queste cellule staminali, non si sa bene come, attraverso il sangue comunque trovano la strada giusta per tornare a riprodurre il midollo. Quindi dopo che avevo ricevuto questa infusione, chiamiamola, di cellule staminali, a quel punto si doveva aspettare per una, più o meno una settimana, non si nota nulla, e dopo una settimana così cominciano a notarsi dei cambiamenti, delle variazioni in analisi del sangue, e se alcuni valori di globuli bianchi, globuli rossi cominciano a risalire, significa che queste cellule staminali hanno attecchito e che il midollo osseo si sta rigenerando. E quello chiaramente è una cosa molto importante, perché non tutti i trapianti hanno successo. Può capitare che questa infusione di cellule staminali si debba anche ripetere. E comunque io all'inizio, proprio quando il giorno in cui mi fecero questo trapianto, in cui mi iniettarono queste cellule staminali, stavo in una situazione in cui non avevo per niente fiducia nella cosa, non so perché, ero arrivato a un punto in cui la mia speranza era annullata, e invece la cosa ha funzionato, e tra alti e bassi alla fine, insomma, adesso sto bene, non prendo più nessun medicinale. Questo, io sono, alla fine sono entrato nell'ospedale, in questa clinica a luglio, il trapianto è stato effettuato a novembre, e sono uscita a dicembre, e per diversi mesi poi qui in casa appunto non avevo neppure tantissime speranze. Un momento che mi ha restituito molte speranze è stata la prima volta che ho incontrato un paziente nelle mie stesse condizioni, che aveva avuto la mia stessa malattia, proprio con tutto quanto, cromosoma Filadelfia categorizzata proprio nello stesso modo, della mia malattia, e che era già da più di un anno uscito dall'ospedale, mi disse che stava molto bene, e quella cosa mi ridiede molta fiducia. Quindi a volte, più che le statistiche o il contatto con i medici, uno psicologicamente ha anche bisogno, almeno nel mio caso è stato così, di parlare con persone che hanno avuto la stessa esperienza, soprattutto se poi la cosa si è risolta in modo positivo. Ok, mi hai praticamente anticipato in quasi tutto quello che ti volevo chiedere. Volevo chiederti, proprio più nello specifico, che conseguenze, che cambiamenti proprio da un punto di vista pratico ha provocato questa esperienza di malattia nella tua vita? Ci sono stati chiaramente molti cambiamenti, sia a livello chiaramente estetico, no? La chemioterapia, la radioterapia ti fa cadere i capelli, io avevo capelli lunghi a cui tenevo abbastanza, ricci, così, e mi sono caduti, ricrescono, però non sono ricresciuti come li avevo prima, quindi adesso ho la testa rasata. ma a parte questo, insomma, non è molto importante. Ci sono anche dei cambiamenti a livello psicologico, a livello proprio interiore, almeno nel mio caso è stato così. Uno si trova ad avere a che fare con certi temi, innestano delle riflessioni. Quindi io adesso credo di essere, di aver un po' superato molti ostacoli che avevo prima, di vedere le cose in una prospettiva un po' diversa, con la consapevolezza che sì, forse hanno tutti, ma magari quando uno si prova ad affrontare questi temi, la consapevolezza che tutto è effimero, tutto potrebbe cambiare da un giorno all'altro. E quindi mi sono anche sentito una maggiore libertà nell'esprimermi, nell'esprimere me stesso. E, una cosa, ad esempio, che ho cominciato a fare, è stato cominciare a scrivere. È una cosa strana perché in passato non avevo mai avuto questa passione, anzi, addirittura a scuola, fino alle scuole superiori, per me mettermi a scrivere il tema era proprio una tortura. E invece ho cominciato a scrivere le mie sensazioni, ma anche cose di vita quotidiana. Ho cominciato a scrivere questo blog che aggiorno ancora oggi. E penso che questo sia in qualche modo un dono della malattia, questa capacità di esprimere di più me stesso. Ecco. Sì, sono E ci d'accordo. sono chiaramente anche delle cose negative che la malattia lascia, però c'è anche qualcosa di buono. Guarda, vabbè, non mi sorprende quanto hai detto, insomma, da matematico convertito all'informatica, non mi sorprende, insomma, che avessi detto che avessi un po' di difficoltà a scrivere, però ecco, vedi, trovo anche proprio molto molto bello che racconti, insomma, diciamo che hai parlato proprio di questa capacità di scrivere, di esprimerti proprio come dono della malattia. E un'altra cosa che mi sento di dirti, insomma, che questa però è una mia opinione personale, che poi si sa che comunque un conto è le cose, capirle intellettualmente, e un altro conto è capirle esistenzialmente. Penso che, insomma, c'è una certa differenza, ecco, e che penso che la malattia ti ha concesso anche questo. Tu che dici? Sì, sicuramente mi ha reso anche molto più empatico, sicuramente nei confronti di situazioni di sofferenza e molto più sensibile. Adesso non so, per dirti una banalità, mi capita molto più spesso di commuovermi di fronte a situazioni magari po' di sofferenza, ma anche a scene di film o a pagine di romanzi che toccano un po' le corde più dei sentimenti interiori, insomma. Quindi ecco, anche questo è stato un cambiamento che ho sperimentato dopo la malattia. Una domanda di tipo, diciamo, così, culturale, se così si può dire. Qual è stata la tua esperienza con il sistema sanitario tedesco, con il loro approccio alla salute e nei limiti, diciamo, della tua esperienza, se puoi azzardare un confronto con la realtà italiana? Ma azzardare un confronto è un po' difficile perché appunto le esperienze le ho avute soprattutto qua. Posso dire che sicuramente il fatto, vabbè, prima di tutto voglio fare la considerazione che secondo me io penso che il sistema sanitario debba essere pubblico. Non so, vabbè, molti avranno visto il documentario di come si chiama? Michael Moore. Sì, Michael Moore, del regista americano, appunto, delle situazioni di quello che può capitare negli Stati Uniti, appunto, senza, in cui non c'è la copertura del sistema sanitario. Magari nel mio caso, ecco, io ad esempio adesso sono incluso in uno studio sperimentale che sta conducendo una casa farmaceutica. Il medicinale che ho preso io per un po' di tempo, se uno lo ha a comprare, cioè lo passa al sistema sanitario, nel mio caso l'assicurazione, però un giorno che l'ho comprato per la prima volta, Il farmacista mi disse: ma lei è sicuro che le hanno prescritto questo medicinale? Perché un pacchetto di quel medicinale costa 9.000 euro. Quindi uno può provare solamente a immaginarsi quanto potrebbe costare quel medicinale, ma per tutto il mio trattamento penso che si parli di centinaia di migliaia di euro. Quindi chiaramente se non c'è la copertura sanitaria, un trattamento del genere per alcune persone non risulta proprio immaginabile. Si parla di un valore di un appartamento a Roma, insomma. E il sistema sanitario tedesco qui è abbastanza simile a quello italiano dal punto di vista della copertura pubblica. A differenza di quello italiano, qui ci sono delle assicurazioni che possono essere pubbliche o private, però alla fine coprono quasi tutte le spese, anche quelle degli specialisti. Quindi uno qui in Germania ha la possibilità di andare dallo specialista, come nel mio caso la reumatologa. Noi tutti abbiamo che è una specie di banco, ma se chiamiamolo con il chip dell'assicurazione. Se uno va dallo specialista, semplicemente viene registrata la spesa, l'appuntamento in questa carta e l'assicurazione poi copre. E questa cosa funziona abbastanza bene perché appunto ti permette di andare da qualsiasi specialista essendo coperto. E poi un'altra differenza che ho notato rispetto all'Italia è che se qui uno va dal medico di famiglia o da uno specialista e ha bisogno di un'analisi, di un'ecografia, di un elettrocardiogramma, non è come nella maggior parte degli ambulatori italiani, per cui ti prescrivono l'analisi, ti prescrivono l'ecografia, poi devi prendere l'appuntamento da un'altra parte per farti l'ecografia, tornare dal medico. No, lì avviene tutto nello studio del medico, quindi fa direttamente l'ecografia, fa direttamente la radiografia o il prelievo e avviene tutto lì, quindi risparmia sicuramente tempo e soldi. Ok, volevo dirti, è stato un problema per te la barriera linguistica nella tua malattia? Beh, un pochino sì. All'inizio, nel 2005, il mio livello di conoscenza del tedesco era ancora più basso rispetto a quello di adesso, quindi un po' a volte parlavo anche in inglese. Ecco, la fortuna era che quasi tutte le infermiere parlavano anche l'inglese. Poi lì, chiaramente, durante tutti quei mesi lì, il mio vocabolario, soprattutto quello di carattere medico, crebbe a dismisura, quindi imparai pure un po' di questi termini, ero in grado di esprimermi, però era sempre un po' anche complicato comunicare a certi livelli in una lingua che non è la tua. E poi anche tutti i documenti che mi avevano dato, che mi hanno fatto firmare, ricordo che ci fu un'amica, due amiche, una di cui è traduttrice dal tedesco all'italiano e l'altra italiana però sta. Vive da molti anni in Germania, viveva già insomma da molti anni in Germania, conosceva il tedesco molto meglio di me. Fecero una traduzione di tutti questi documenti e li impegnarono un poco, me li tradussero in italiano, quindi è comunque stata un'ulteriore difficoltà, ecco, però alla fine in qualche modo si riusciva a comunicare. Va bene Flavio, senti, grazie veramente. Io direi, insomma, vuoi aggiungere altro? No, grazie, grazie Assolutamente, io ti ringrazio di cuore per questa lunga intervista, davvero toccante, davvero in cui hai detto tante tante cose importanti e veramente mi impressiona proprio vedere come sei riuscito a volgere al bene anche questa, diciamo, difficoltà, questo dramma, insomma, che hai vissuto. Va bene, Flavio, senti, allora adesso ci salutiamo e però ci riaggiorniamo magari più in là, nei prossimi mesi, insomma, per se avrai voglia veramente di condividere con noi il tuo incontro col donatore e con e altri aspetti della vita Heidelberg, va bene? Va bene, Va grazie. bene, un saluto, buonissime cose e ci sentiamo presto. Grazie infinite, Flavio, eh? Grazie molte. Ciao, buonissime cose. Grazie a te, ciao.